La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. L'articolo 139 affronta un altro dei grandi dilemmi costituzionali. Una volta che si è deciso che le costituzioni possono essere modificate, si può modificare tutto o ci sono degli elementi che non possono essere modificati? L'articolo 139 risponde in una maniera limpidissima. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Che cosa significa? Significa che in fondo l'Assemblea Costituente non era libera di scrivere la Costituzione in qualsiasi modo, perché aveva alle spalle il referendum istituzionale. Il popolo italiano aveva deciso, l'Italia deve essere una repubblica, quindi non può essere una monarchia. Ecco allora che non può bastare una riforma costituzionale per restaurare la monarchia ed eliminare la repubblica. Questo cosa significa? Significa da un lato che l'Italia potrebbe anche tornare ad essere una monarchia o una qualunque altra forma di Stato, ma non basterebbe una riforma costituzionale, servirebbe una nuova Costituzione. Una riforma costituzionale che puntasse a far tornare la monarchia o altra forma di Stato verrebbe incredibilmente giudicata incostituzionale dalla Corte Costituzionale perché viola l'articolo 139. Ma ovviamente l'articolo 139 tutela anche l'effettiva garanzia delle istituzioni repubblicane. Quindi cosa significa? Significa che in sede di revisione costituzionale, ad esempio, non si potrebbe eliminare il Parlamento, non si potrebbe dare una carica al Presidente della Repubblica troppo lunga. Oggi il nostro Presidente della Repubblica resta in carica 7 anni. Non si potrebbe in sede di revisione costituzionale pensare che il Presidente resti in carica 25 anni. O ancora, non si potrebbe in sede di revisione costituzionale pensare che il Presidente non venga eletto dal Parlamento o da qualunque organo repubblicano, ma ad esempio venga designato dal suo predecessore, come accade nelle monarchie. Ecco allora che l'articolo 139 è la massima garanzia della forma repubblicana, perché la forma repubblicana non può essere toccata da nessuno, neanche in sede di revisione costituzionale.